Continuo a cercare, viaggiando come un'ombra luminosa tra la dolcezza e la follia, volando leggero come una foglia cadente sopra i fiori profumati che colorano verdi oceani su cui non ci sono divieti. C'è stato un tempo troppo bello, troppo breve, un tempo di troppo. Darai nuova luce alle stelle arrugginite in un cielo da troppo tempo ignorato. C'era una ragazza, non ancora donna, e c'era un sogno ricorrente, come una rima baciata. Non sapevo baciare, non sapevo baciare. E parlerai a stranieri pronti a sorridere al tuo sorriso, e amerai donne che piangeranno la tua partenza. Era bella, lo era per me, si faceva bella per me, si faceva donna piano piano, come quando d'estate si fa sera. Era bella, lo era per me, dolce come uno schiaffo, contraddittoria, dispettosa, come poi dopo ho capito essere l'amore. Incontrerai persone che non crederanno ai tuoi occhi, ma saprai guardare nei loro cuori. Sarai padre di chi ti rivelerà un segreto e figlio di un'emozione nascosta. Ho scritto poesie alla persona sbagliata, o forse ho semplicemente scritto delle poesie sbagliate. I tuoi piedi non saranno mai stanchi, e la tua casa sarà il cuore di chi ricorderà il tuo nome. Ma non ho rimpianti, non ho rimpianti, ma rimorsi, che è tutta un'altra storia. E la tua casa sarà il cuore di chi ricorderà il tuo nome. Tutta un'altra storia. Scusate, non mi sono neanche presentato, io sono appena arrivato. Da dove? Da nessuna parte. Del resto in questa valigia c'è tutto. Sì, lo so, a voi sembra vuota, ma non è così. Sono sicuro che la maggior parte di voi è convinta che pensare a niente voglia dire non pensare. E invece no, ci vuole molta fantasia, molta immaginazione per pensare a quello che non c'è, a cose, persone che non hanno una forma, o se magari nella realtà ce l'hanno, nei miei pensieri ne assumono un'altra, invisibile. E qui dentro, in questa valigia, c'è tutto questo, quello che in italiano chiamiamo niente, ma che per una persona può essere tutto. E io, per lo stesso ragionamento, sono nessuno. Sì, nessuno. Anche Ulisse era nessuno, eppure ha conosciuto il mondo, ed il mondo ora conosce lui. Io non sono così famoso, non conosco altre persone, e soprattutto gli altri non mi riconoscono. Io non sono così famoso, ma anche io ho vagato per una pianura sterminata, dove il sole cala a oriente, dove quando piove, piove davvero, e gli uomini si bagnano come foglie, dove il sole, la luna non si rincorrono, ma spesso si fermano a parlare del tempo che passa, dove le comete squarciano il cielo senza fargli male, perché il vento lo ricuce di stelle. L'aria poi profuma di azzurro, e le piante riveriscono il vento con nobili inchini, conservando però la propria dignità. Ed i fiori si fanno belli specchiandosi nelle pozzanghere, e le nuvole a forma di sogno passeggiano nel cielo, e capita che a volte piangano per dare da bere ai sassi che si nutrono di emozioni, perché in questa pianura i sassi, anche i sassi, amano. Ho vagato per una pianura sterminata, dove in alcuni giorni, quando il sole grida più del solito la sua luminosità, è possibile vedere delle montagne così alte che grattano i pruriti del cielo. Ho vagato cercando di raggiungere quelle montagne, ho vagato per una pianura sterminata. E poi all'improvviso su un treno. Viaggiare in treno è come correre in un flashback. Le case, gli alberi, le persone, ogni cosa fuori lì dal finestrino sembra assumere la forma di un'ombra, di uno scheletro, di una sagoma dei nostri ricordi. Alla velocità del treno e alla lentezza dei nostri pensieri, ogni cosa acquista la forma di un interminabile déjà vu. Viaggiare in treno è correre contro qualcosa. È una corsa arrabbiata contro lo spazio ed il tempo che ci circondano. No, non è una fuga. È più che altro un arrembaggio disperato. Io ho condiviso il mio viaggiare con centinaia di occhi stanchi. Mi sono trovato faccia a faccia con persone a cui non avevo niente da dire. I miei compagni di viaggio non avevano un nome, almeno per me, e non avevano una vita. Esistevano soltanto in quel breve tragitto di spazio e di tempo. Ne ho viste di facce e di occhi stanchi. Ne ho vista di gente tutta uguale e tutta diversa. Un'unica anima pronta ad abbassare lo sguardo ad ogni improvviso incrociarsi degli occhi. I passeggeri di un treno sono un compagno muto, uno specchio impietoso, che riesce a farti vedere quanto puoi essere stanco e solo quando viaggi. A volte mi è capitato di avere delle belle ragazze, delle donne affascinanti, sedute lì di fronte a me, subito pronte a scendere alla loro stazione che, guarda caso, non era mai la mia. A volte fui tentato di seguirle fino a chissà dove, magari avevano una buona bottiglia di vino o un letto comodo da offrirmi, insomma, qualcosa da condividere. Magari col tempo si sarebbero fatte curiose, avrebbero fatto domande, avanzato proposte. Avrei seguito la prima donna disposta ad accogliermi, la prima in grado di accettarmi. E invece, con una sorta di allegra disperazione compiaciuta, sono sceso alla prima stazione, quella dal nome e dall'aspetto più anonimo. A me le stazioni non mi piacciono. Cioè, non è che non mi piacciono, è che mi sembrano un po' tutte uguali. Però c'è un posto che non manco mai di visitare appena arrivo in una nuova stazione. È il bar. Il bar della stazione. Sì, lo so, di solito sono squallidi, sporchi, frequentati male, ma sono sicuro che nessuno di voi sa spiegarmi il perché. Cos'è che li rende così brutti? Forse la puzza e lo sporco, ma queste con uno straccio e un po' di sapone andrebbero subito via. Forse il personale, ma in fondo non è che in giro si veda gente poi tanto migliore. E allora la merce. Ma no, in fondo è roba confezionata, la maggior parte delle volte anche di marca. E allora che cos'è? Non è la puzza, non è lo sporco, non è il personale e neanche la merce. Che cos'è? È l'indifferenza. L'indifferenza e l'abitudine. Noi nasciamo con quattro certezze. La prima è quella che purtroppo non accetteremo mai. La seconda è che nessuno è perfetto. La terza è che la vita va così. La quarta è che i bar della stazione sono squallidi, sporchi e frequentati male. A giudicarli in questo modo sono anche quelli che non ci sono mai entrati, ma possono farlo. Possono giudicarli perché fa parte delle loro quattro conoscenze primitive ed è per questo che quei pochi che ci sono entrati non hanno neanche detto grazie. Ma allora io mi chiedo, è giusto accusare questi bar di essere sporchi e puzzolenti? No. No, perché chiunque di noi, ignorato completamente da tutti, beh, si lascerebbe andare. Smetterebbe di curare la pettinatura, l'abbigliamento, l'igiene. Il bar della stazione è quel bambino che le mamme ti dicono di non frequentare solo perché magari ha il naso sporco o i pantaloni strappati. E così, abbandonato dal treno in quella nuova città, non mi sono messo a cercare un lavoro, una sistemazione, un alloggio, no. Sono andato dritto alla vecchia rimessa delle auto. Ah, la rimessa è fuori dell'universo. In essa non valgono le leggi che conosciamo, è un altro universo. È un rifugio di latta e di ruggine, abitato da uomini di latta, ruggine e poesia. Ci vivono uomini che hanno preso il treno sbagliato e altri che l'hanno perso. Uomini che si sono sposati troppo presto e altri troppo tardi. Ci sono bambini in pensione che per troppo tempo hanno corso dietro un aquilone che volava un po' troppo alto per loro e si sono fermati lì con il fiatone e qualche capello bianco. Ci sono ex Miss Liceo che ricercano la propria bellezza tra i rottami e ci sono donne che conoscono a memoria troppe canzoni di qualche cantautore crepuscolare. La rimessa è uno stato d'animo. È il piumone caldo in un piovoso pomeriggio invernale, il posto in cui tutti trovano la propria dimensione. C'è chi sceglie di dipingere con la ruggine, chi di comporre melodie usando il clacson ed il cigolio delle portiere, e altri invece creano versi in decasillabi usando le parole del libretto delle istruzioni delle auto. E nessuno sente il bisogno di lavorare, e tantomeno di uscire da questo paradiso abusivo. Mi ricordo che tra i tanti abitanti della rimessa c'era un omino alquanto buffo. Vestiva di stracci ma eleganti, nel senso che tra la spazzatura aveva trovato un vecchio abito da sera e da quel giorno non se l'era mai più tolto. Le scarpe nere poi si ignoravano completamente, si ignoravano come due giovani amanti offesi, si ignoravano a causa dei piedi esageratamente piatti. Era un tipo molto goffo, apparentemente distratto, ma aveva due qualità che lo rendevano davvero eccezionale. La prima è che tra la spazzatura trovava ogni genere di cosa, trovava sempre quello che cercava. E cercare tra la spazzatura è un po' come fare spese al mercatino. Ci sono donne che tirano all'aria l'intera bancarella senza mai trovare niente che le soddisfi, neanche un paio di mutande. e altre invece che tra la varia biancheria intima fanno delle vere e proprie scoperte. Ecco, queste donne, come il nostro Mino, non è che abbiano dei poteri soprannaturali. Il loro segreto sta nel trasformare quello che trovano in quello che cercavano. La seconda qualità poi era davvero speciale, era ciò che lo rendeva davvero unico lì alla rimessa. Era muto, sì, era muto, ed è per questo che tutti lì lo chiamavano Charlot. Io avevo scelto un vecchio due cavalli rosso come abitazione, un vecchio due cavalli rosso scoperchiato, la cappotta si era persa in chissà quale incidente. Mi ricordo una sera d'estate ero seduto al posto di guida con il naso lì in su, pensando a quanto il cielo sembri prezioso quando è pieno di stelle. Pensavo a tante cose quando all'improvviso, eccola, la prima stella cadente della mia vita. Non ne avevo mai vista una, e pensare che da ragazzino la notte di San Lorenzo la passavo sempre sveglio per cercare di catturarne almeno una, e mai niente. Quella notte invece, perso tra mille pensieri, è stata lei a trovare me, e così la prima, poi un'altra e un'altra ancora, tutte quella notte, una dopo l'altra, così che non ho avuto neanche il tempo di esprimere un desiderio. Ma forse quelle stelle lo facevano apposta, forse quelle stelle non mi davano il tempo di pensare, perché in fondo l'unico desiderio da esprimere è quello di continuare a desiderare. Poi all'improvviso sentii lo sportello gracchiare, mi voltai e accanto a me c'era Charlot. Anche lui si mise a contemplare questo magico quadro infinito, ma alla prima stella cadente lui non seppe resistere, si voltò e mi disse: lo sai qual è il mio desiderio? Io lo guardai in silenzio, stupito più dal fatto che parlasse che dalla domanda stessa, e lui allora mi rispose: fotografare un sogno. Sai come si fa? Io continuai a guardarlo senza pensare, e allora lui con la testa mi fece segno di seguirlo e mi portò oltre le carcasse delle auto, oltre il buio della notte, e poi lì mi indicò col dito un punto lontano della rimessa in cui c'era uno schermo bianco teso come un lenzuolo su cui scorrevano le immagini di tutti i film. Era un film fatto di tutti i film, ombre colorate che si imprimevano su quel fazzoletto magico. E fu in quel momento che pensai che quella lì, sullo schermo, è una vita migliore. Che sarebbe bello essere registi della propria vita. Ma non sempre è possibile, anzi purtroppo quasi mai. La maggior parte delle volte ci accontentiamo di fare le comparse, figuranti che entrano ed escono di campo senza neanche essere messi bene a fuoco. Ma non è soltanto colpa nostra, io ho grande rispetto per Dio, e cinematograficamente parlando, come scenografo, è anche bravo. Bello il mare, le montagne, i laghi, bello, tutto bello. Ma come montatore Dio non vale niente. La vita è un film montato male. I momenti belli durano troppo poco e quelli brutti troppo. Praticamente è come un film francese. Non vorrei sembrarvi pessimista, la vita è davvero una gran bella cosa, è solo che in confronto al cinema ci perde, perché il cinema è un mosaico di tutte le arti, un circo viaggiante di ombre colorate e fantasmi senza catene. Il cinema è un mondo perfetto perché è fatto di niente, è un sogno d'occhi aperti che dà coraggio anche a chi ha paura del buio. Il cinema è desiderio, è il sogno di qualcun altro che riesce a far sognare anche te. Il cinema è qualcosa di magico, il cinema è musica per gli occhi. Ma poi arrivò l'estate, e con l'estate l'insofferente bisogno di rimettermi in viaggio. Mi svegliai una mattina e mi sentii vecchio, prima del tempo, vecchio per il tempo trascorso. Mi svegliai e mi sentii colpevole d'aver lasciato perdere, d'aver lasciato correre, di non aver trattenuto chi dovevo, chi volevo veramente. Era il rimpianto a intorcigliarmi lo stomaco, un furore, un randagio che mi graffiava, mi mordeva dentro. Un po' presto, pensai, ma con me fu inesorabile. Mi svegliò quella mattina come dovessi pagare l'affitto di una vita che non mi apparteneva. Non avevo fatto quello che avrei voluto fino a quel tempo. E allora c'è sempre un riscatto da pagare, per le promesse non mantenute, per i sogni interrotti e mai più ripresi. C'è sempre un prezzo da pagare. Un po' presto, pensai. Ma in fondo presto per cosa? Del resto ero ancora in tempo per rincorrere i primi tempi passati o le stagioni migliori. E allora scelsi di intraprendere la più difficile delle avventure, la più incredibile delle avventure, quella di viaggiare nel tempo E come mappa scelsi una vecchia fotografia stropicciata come la fronte d'un vecchio. La foto di Martina, il mio primo amore. La conobbi d'estate in vacanza. Fu lei a darmi il primo bacio. Venne una sera e mi disse: ci salutiamo come i russi. E io la guardai intensamente e poi le dissi: da Svidania. E lei sorrise e poi mi diede un bacio piccolo, frettoloso, ma pieno d'amore. Ecco, io volevo tornare in quel punto esatto della mia vita. Volevo tornare da lei, per poi con lei ricominciare. Cercai Martina e la trovai in un autunno timido e distratto. Quando la rividi per la prima volta lì di fronte a me, mi sentii leggero. Sì, leggero, come un ballerino aggraziato. L'avevo raggiunta finalmente. Prima di allora l'avevo cercata dalla parte sbagliata e mi ero fatto da parte dalla parte sbagliata. Con lei avevo sbagliato le parole, i tempi, e un ballo di passi falsi ti rende zoppo. Ed io è per questo che non ero mai riuscito ad andare a tempo con lei. Ma stavolta sentivo che i nostri passi coincidevano. Stavolta la vedevo lì di fronte a me e l'abbracciavo con lo sguardo, mi riflettevo in lei come fa il cielo con le pozzanghere. Rivivevo le emozioni di quella estate perfetta, fatta solo per divertirsi, e capì che lei era la mia estate, il momento più bello della mia vita, il meglio di me. La luce anemica del primo mattino bussava fiaccamente alla finestra. Io e Martina dormivamo mano nella mano. I nostri respiri tenui ed educati si alternavano con una stupefacente sincronia ritmica. Era una soffice melodia d'amore, un respiro lieve, profondo, a cui troppo poco spesso si accorda il battito del mondo. I timidi raggi del sole picchiettavano sui vetri come zanzare. Io e Martina aprimo simultaneamente gli occhi e i nostri sguardi si sorrisero. Poi io, senza attendere neanche un secondo, le raccontai il mio sogno, con l'entusiasmo di chi racconta la trama del suo film preferito o un aneddoto particolare della propria vita. Lei lo ascoltava in silenzio, muta, misteriosa, come sempre. Ogni mattina si ripeteva questa dolce routine. Io avevo sempre un sogno da raccontare e lei, con amore, lo fondeva al suo, dando vita così dentro di sé ad un unico sogno, un unico respiro, un unico battito. Sì, perché andai a vivere con lei in un monolocale e fu per Martina che lasciai la rimessa. Aveva paura che una di quelle stelle cadenti potesse caderci in testa e quindi all'improvviso mi trovai in un mondo in cui la ruggine è sporca, il clacson sveglia dai sogni e le istruzioni delle auto sono incomprensibili. Ma non voglio, cioè non è che non voglio, è che non posso, non è neanche che non posso, è che non ci riesco. Non riesco a parlare di lei, è andata via un'altra volta e forse stavolta per sempre. È andata via come i sogni più belli al sorgere dell'alba, come qualcosa che hai troppo paura di perdere. È andata via tutto qui. Ma sì, del resto è normale. Del resto, com'è che si dice? Tutto passa, ma che almeno resti qualcosa, ma che almeno resti la scia di ciò che è passato. E io invece ero rimasto solo in quel monolocale, con il rimpianto di lei, della rimessa e di quel magico soffitto di perle dorate che i poeti e gli scienziati chiamano stelle. Il cielo visto dalla mia stanza era diversa. La vita vista da quella stanza era diversa. La guardavo scorrere come si fa la mattina con l'acqua del rubinetto quando aspetti che diventi calda. Avevo bisogno di calore, di qualcosa che mi avvolgesse e, perché no, cullasse. A volte i sogni non bastano. Quando resti da solo poi non ti sembrano mai abbastanza. Passavo le mie giornate seduto sul cornicione della finestra che dava sulla strada. Il problema è che da quelle parti non passava mai nessuno. E così dopo pochi secondi i miei occhi si perdevano alla deriva in qualche lontana terra straniera. Che venga l'autunno, pensai, e mi bagni di foglie. Che arrivino gli impegni e le cose da fare. Che mi strattoni il senso del dovere e i conti che non tornano. Che si arrossi la gola e gli occhi e il naso. Che mi stordisca la nebbia la mattina e che faccia anche buio prima la sera. E se poi l'autunno non bastasse a spaventarmi, che chiami anche a rinforzo l'inverno ed il freddo, tutto. Calpesterò le foglie, le farò scrocchiare, che piova pure per 2, 3, 4 giorni di seguito, avrò un posto sotto cui ripararmi, oppure mi saprò asciugare. Mi farò luce nella sera prematura Mi prenderò le mie responsabilità, mi farò rispettare. Mi stringerò nella giacca, calpesterò le foglie, ma non tremerò. Mai. Il termosifone respirava con la sua inconfondibile asma ferrosa. Le mura bianche si sporcavano al flusso dei miei pensieri, opachi. Opachi erano i vetri delle finestre, opachi erano i miei occhi. La mia fronte era perlata di sudore. La porta ferma, indifferente, stava a guardare questo piccolo mondo chiuso. La porta ferma e indifferente improvvisamente si aprì. Il sole superò le noiose macchie dei vetri, filtrò attraverso la finestra ed entrò nei miei occhi, così che mi fu impossibile vedere chi fosse entrato. Era una donna. Questo lo capii dalla voce. Una voce che pronunciava un suono a me familiare, ma in quel momento potevo comprenderne soltanto il suono e non il senso. Poi la porta si chiuse, le finestre si spensero e i miei occhi tornarono alla penombra della propria esistenza. La porta si chiuse, ad essere entrata era la portinaia. Voleva i 2 mesi di arretrati. Aveva pelose pantofole rosa, abbondanti guance rosse e capelli neri, troppo neri. Ma del resto si sa, i fiori di plastica non profumano mica. E anche le tinte per capelli sono colori finti, mascherati. Ma a smascherare questa colorata bugia bastava un piccolo capello bianco nascosto qui, dietro l'orecchio sinistro. A me non ci volle niente a scovarlo, ma come si dice, ai ladri basta uno sguardo per riconoscersi. E la stessa cosa forse vale per gli innamorati e anche per i dimenticati come me. E quindi, come quel piccolo capello bianco si nascondeva da una ridicola tinta, anch'io mi nascondevo, anche se non sapevo poi bene da cosa. E allora decisi di lasciare il monolocale senza pagare gli arretrati e senza neanche prendere quei 4 stracci che avevo lì dentro. Mi rimisi semplicemente a vagare per strada. Vagavo, semplicemente vagavo. Non avevo più tante idee per la testa e la strada mi sembrava troppo stretta. E così, senza farmi troppe domande, salii su un circo viaggiante. La vita in un circo è fantastica. Le prove poi sono eccezionali. Il macchinista s'arrampica valorosamente sulla ruota panoramica e il mangiatore di fuoco è immobile in un mare di sudore, vittima dell'ondata di caldo. La donna grassa, la grande mamma, Missy Bimbo, siede sulla sedia, si sventola, sbadiglia, il nano si lecca le dita e soffre per il disprezzo di Missy Bimbo. Il ragazzo del circo si muove sul filo con l'agilità di una scimmia, l'imbonitore flirta con una ragazza fumata e un po' giù di corda. Gli elefanti danzano in maniera davvero funky e l'orchestra suona come fosse scoppiata un incendio nella giungla. Poi cala la sera e lo spettacolo ha inizio. Una rullata di tamburo e la ballerina va avanti e indietro in equilibrio sulla corda tesa. Poi un colpo di cannone, un bagliore accecante si muove attraverso la tenda e da dietro la tenda. Il nano prega a Dio di salvare la donna cannone. A consolarlo, a tenergli la mano, c'è Margarita, la contorsionista. E lo spettacolo scivola via tra applausi e sospiri fino a quando entra in scena il direttore del circo, che chiede alla folla di contare con lui 95, 96, 97. E prima che il conto sia finito è già scappato via con una valigia scassata. Lo spettacolo è finito. Il pubblico esce lentamente, scorrendo come un timido fiume di campagna. I ragazzi smontano il tendone, caricano tutto sulle roulotte e il circo viaggiante è di nuovo per la strada. Ma prima di partire, un uomo coi pantaloni gonfi, lo sguardo malinconico, la smorfia un po' folle, nascosto in un angolo prega inginocchiato: Gesù, manda sulla terra qualche gentile signora per salvare tutti i tuoi clown. E prima che una lacrima tocchi le sue labbra, è già di nuovo sul carro insieme agli altri, verso la nuova, misteriosa destinazione. Appena arrivati nella nuova città, l'uomo forzuto, Samson, prende il nano, se lo mette sulle spalle e vanno verso il viale centrale per avvertire tutti, ma proprio tutti, bambini, marinai, che il circo viaggiante è di nuovo in città. Intanto il boss scende dalla sua roulotte e sussurra maestosamente: figlioli, diamoci da fare. In un attimo il tendone è già in piedi e le prove sono ricominciate. Quando calerà la luce, lo spettacolo avrà inizio, assurdo e stupefacente, come ogni sera. Sono stato con loro per più di un anno e ho fatto tutti i lavori possibili, ho fatto ogni genere di cosa. Ho pulito le gabbie, ho smontato e montato il tendone, ho venduto zucchero filato e popcorn, l'ho detto, ho fatto ogni genere di cosa e avrei anche continuato a farla, ma quando hai un destino come il mio è impossibile fare progetti, perché basta una curva e ti ritrovi lontano 1000 miglia dalla vita che ti eri immaginato fino a un secondo prima. E così all'improvviso passai dalla frenetica poesia del circo ad una spiaggia vuota, desolata, bagnata da un mare così profondo e così scuro da assomigliare ai pensieri di ogni viaggiatore solitario. Sì, perché ero solo e mi sentivo solo, che non è esattamente la stessa cosa. Rimpiangevo ogni cosa, tanto che avevo la sensazione che alla fine non mi mancasse niente. Nuotavo e pescavo per non morire e poi a dire la verità avevo un'amica che veniva a trovarmi quasi sempre alla stessa ora, quando un'enorme chiazza rossa di sole indugia sull'orizzonte per poi scomparire lasciando il cielo terso come uno specchio, ma con uno straccio di nuvola che sembra uno straccio insanguinato proprio lì, nel punto dove è scomparso il sole. E poi da Levante l'oscurità si muove alla conquista della terra e lei si accende e splende subito, la mia amica, la prima stella della notte. E poi c'è lei, il faro del mondo, la luna. Non so se ci avete fatto caso, ma parlare con la luna è più facile. Di notte è più facile fare progetti, prepararsi discorsi, che poi la mattina, quando ci svegliamo, ci vergogniamo anche solo di averli pensati, come se non fossimo stati noi a farli la sera prima, come se ci vergognassimo a parlarne con il sole. È un po' come se di giorno fossimo una persona e di notte un'altra. Beh, se è così, io voglio essere quello che parla con la luna. Quando me ne andai di casa ero molto giovane. Perché me ne andai? È passato così tanto tempo che forse non riesco più a rispondere a una domanda del genere. In quegli anni mi ricordo che ripetevo sempre che io scappavo per qualcosa e non da qualcosa, ma era soltanto una scusa come un'altra per non tornare indietro. Ecco, tornare indietro era l'unica cosa che non volevo fare, lasciarmi l'oscurità alle spalle. Questo ripetevo sempre, lasciarmi l'oscurità alle spalle. Ma quale oscurità? La verità è che c'ero nato così. Salgari ha descritto il mondo restando seduto comodo su una poltrona, e io, che ho girato il mondo, non ho mai trovato una poltrona comoda. Mia madre me lo diceva sempre, non sai stare fermo, tu non sai stare fermo un attimo. Ma io è questo, quello che sto cercando. Io cerco qualcosa che mi fermi, che mi blocchi, che mi pietrifichi lì a bocca aperta, qualcosa che mi incanti, che mi rapisca i piedi e la voglia di camminare, che mi faccia tremare le gambe e crollare seduto, ma non per stanchezza, ma per stupore. Io cerco qualcosa di bello, perché la bellezza ti blocca. Non è un caso che quando una cosa è talmente bella diciamo è la fine del mondo, perché forse finisce davvero il mondo da viaggiare quando incontri la meraviglia. A volte mi viene voglia di tornarmene a casa, poi ci penso un attimo e mi viene da ridere. Qual è casa mia? Io non ce l'ho una casa, e non ce l'ho perché non c'è nessuna parte del mondo qualcuno ad aspettarmi. Sono solo. Si dice che la solitudine sia il prezzo da pagare per la libertà, almeno fino a quando non lo saremo tutti liberi, si intende. Io ho conosciuto tante persone, alcune di queste le porto ancora nel cuore, quindi forse non sono poi così davvero solo. L'unica cosa che davvero temo è che i miei genitori non si ricordino più di me. Non possono ricordarsi il colore dei miei occhi e tantomeno la luce, vista che questo col tempo cambia come le stagioni. Sicuramente in questi anni mi avranno cercato o avranno incaricato qualcuno di farlo, ma poi si saranno rassegnati. Io temo di averli fatti soffrire, questo mi rattrista ogni volta che ci penso. Però poi mi viene in mente che forse attraverso il vento, attraverso i miei pensieri, il mio respiro sia continuata ad arrivare alle loro orecchie, perché se una persona è ancora viva, beh, lo si sente anche a chilometri di distanza. Non c'è mica bisogno di tastare il polso, di toccare il cuore. Queste sono soltanto delle scuse per restare più vicini, delle scuse dolci a cui io ho resistito tante volte, troppe volte, praticamente sempre. Si dice che chi è solo colmi la solitudine con la fantasia. Deve essere così che si comincia a parlare da soli. I bambini, per esempio, si inventano un amico immaginario, o forse ce l'hanno davvero e l'invenzione sta nel non vederlo. La verità forse è che a questo mondo ognuno cerca di tenersi compagnia come può. Non lo so, ma so soltanto che almeno una volta tutti nella vita abbiamo sentito una voce, un lento sussurrare senza forma. È un ordine, una bugia, una promessa, Non so dire esattamente di che cosa si tratti. So soltanto che qualche scrittore gli ha dato la forma di una bellissima sirena. Continuo a cercare, viaggiando come un'ombra luminosa tra la dolcezza e la follia, volando leggero come una foglia cadente sopra fiori profumati, che colorano verdi oceani su cui non ci sono divieti. Darai nuova luce alle stelle arrugginite di un cielo da troppo tempo ignorato, e parlerai a stranieri, pronti a sorridere al tuo sorriso, e amerai donne che piangeranno la tua partenza. Incontrerai persone che non crederanno ai tuoi occhi, ma saprai guardare nei loro cuori. Sarai padre di chi ti rivelerà un segreto e figlio di un'emozione nascosta. I tuoi piedi non saranno mai stanchi e la tua casa sarà il cuore di chi ricorderà il tuo nome. Prima stella della notte, ho sognato la libertà. Ho sognato di viaggiare perché la libertà è un viaggio. Adesso so con quale umore il sole si sveglia la mattina e con quanti rimpianti si addormenta. Ho contato tutti i granelli di sabbia su cui ho poggiato la mia testa e i miei sogni. Sono riuscito a gridare forte la mia passione ed il mio entusiasmo, e sono anche riuscito a trovargli una musica, una melodia, perché la vita scorre al ritmo di una melodia che è lenta, molto più lenta dei nostri pensieri, una melodia che pochi sentono e che quasi nessuno riesce a canticchiare. Prima stella della notte, ho capito che il passato non esiste, o se esiste è fatto male, è imperfetto, proprio come si chiama il verbo. Esiste solo il presente, con le sue fessure strette per guardare avanti e indietro. Esiste solo il presente, fatto di rimpianti e di speranze. Esiste solo il presente, fatto di cose da fare, da sbagliare, da rimandare e da ricominciare. C'è solo un tempo da seguire, un solo ritmo da tenere. E c'è un momento preciso in cui capisci di esserti innamorato, e ho capito che non si può stare troppo lontani da chi si ama. Non si deve. Prima stella della notte, ho ascoltato il battito del mare, perché il mare ha un cuore e le onde sono dovute all'aumentare delle sue pulsazioni. Le onde crescono quando il mare si emoziona o ha paura, e ho capito che ciò che ci fa più paura è ciò che più amiamo, perché per amare ci vuole coraggio, come per navigare. Ho guardato negli occhi la luna e devo dire che pensavo fosse più vecchia. Le rughe, tutte quelle rughe che c'è sulla fronte, non sono di vecchiaia, ma sono dovuta al pensare, e noi purtroppo gliene diamo molto. Prima stella della notte, ho conosciuto l'amore. Prima stella della notte, ho conosciuto la libertà. Prima stella della notte, sto tornando a casa.